Era talmente del tipo che poteva piacere a Charlot che lo sospettai di falsità quando mi disse di non conoscerlo. Mi sbagliavo. Il groom era assolutamente sincero quando aveva detto al barone che Aimé, il quale il giorno dopo gli aveva dato una strigliata, era andato a dormire o era uscito, e l'altra volta che era impegnato nel servizio. Ma l'immaginazione va oltre la realtà. E l'imbarazzo del groom, probabilmente, aveva risvegliato in Charlot, circa la sincerità delle sue scuse, dei dubbi che avevano ferito nel suo animo sentimenti di cui Aimé non sospettava l'esistenza. Abbiamo anche visto come Saint-Loup avesse impedito ad Aimé di raggiungere la carrozza dove Charlot, che si era procurato non so in quale modo il nuovo indirizzo del capocameriere, aveva patito una nuova delusione. Aimé, che non se n'era accorto, provò un comprensibile stupore quando, la sera stessa del giorno della mia colazione con Saint-Loup e la sua amante, aveva ricevuto una lettera sigillata con lo stemma dei Guermantes e di cui citerò qui qualche passo come esempio di follia unilaterale in un uomo intelligente che si rivolge a un imbecille di buonsenso. Signore, non sono riuscito ad ottenere, a dispetto di sforzi che susciterebbero stupore in non poche persone le quali cercano invano di essere ricevute e salutate da chi vi scrive, che voi prestaste ascolto ad alcune spiegazioni che non mi chiedevate, ma la cui offerta ritenevo consona alla mia dignità e alla vostra. Vi scriverò dunque qui quanto sarebbe stato più semplice dirvi a viva voce. Non vi nasconderò che la prima volta che vi ho visto a Balbec il vostro viso mi è riuscito francamente antipatico. Seguivano poi alcune riflessioni sulla somiglianza, notata solo il secondo giorno, con un amico defunto per il quale il signor di Charlot aveva nutrito un grande affetto. Avevo avuto allora per un attimo l'idea che voi, senza che la vostra professione avesse a risentirne, avreste potuto venire a regalarmi l'illusione che egli non fosse morto, giocando con me quelle partite a carte con cui la sua allegria sapeva dissipare la mia tristezza. Qualunque sia la natura delle ipotesi più o meno sciocche da voi probabilmente concepite e più alla portata d'un servo, il quale non merita nemmeno questo nome giacché non ha voluto servire, che non la comprensione d'un sentimento così elevato, è da credere che abbiate pensato di rendervi importante, ignorando chi io fossi e cosa fossi, facendomi rispondere, quando vi facevo chiedere un libro, d'essere andato a dormire. Ora, è uno sbaglio supporre che un comportamento maligno possa mai aggiungere alcunché alla grazia di cui voi siete peraltro totalmente sprovvisto. Avrei troncato in quel punto se la mattina dopo, per caso, non mi fosse capitato di parlarvi. La vostra somiglianza col mio povero amico s'accentuò a tal punto, facendo sparire finanche la forma insopportabile del vostro mento prominente, che io capii come lo stesso defunto in quel momento vi prestasse qualcosa della sua espressione indicibilmente buona per consentirvi di riprendermi e impedirvi di mancare l'occasione unica che vi si offriva. Infatti, sebbene io non voglia mischiare a tutto ciò volgari questioni di interesse, dal momento che la faccenda è ormai chiusa, ne avrò altre occasioni di incontrarvi in questa vita, sarei stato ben felice d'obbedire alla preghiera del morto, perché io credo alla comunione dei santi e alla loro pretesa di intervenire nel destino dei vivi, che mi comportassi con voi come con lui, che aveva la sua carrozza, i suoi domestici e al quale era affatto naturale che io consacrassi la maggior parte delle mie rendite, visto che lo amavo come un figlio. Voi avete deciso altrimenti. Alla mia richiesta di portarmi un libro avete fatto rispondere che dovevate uscire. E stamattina, quando vi ho fatto chiedere di raggiungermi alla carrozza, mi avete, se così posso esprimermi senza sacrilegio, rinnegato per la terza volta. Mi scuserete se non metto in questa busta le cospicue mance che contavo di darvi a Balbec e alle quali mi sarebbe troppo penoso limitarmi nei riguardi di qualcuno con cui, per un istante, avevo creduto di poter dividere tutto. Al più, potreste evitarmi di compiere presso di voi, nel vostro ristorante, un quarto tentativo inutile e sino al quale la mia pazienza non si spingerà. E qui Charlot forniva il suo indirizzo, l'indicazione delle ore in cui lo si poteva trovare, eccetera. Addio, signore, poiché credo che, assomigliando a tal segno all'amico che ho perduto, non possiate essere interamente stupido, senza di che la fisionomica sarebbe una scienza mendace, sono persuaso che un giorno, ripensando a questo incidente, non mancherete di provare qualche rimpianto e qualche rimorso. Per parte mia, vogliate credere che in tutta sincerità non ne serbo alcuna amarezza. Avrei preferito che ci lasciassimo su un ricordo meno cattivo di questo terzo tentativo inutile. Sarà presto dimenticato. Siamo come quei vascelli che avrete visto talvolta da Balbec incrociarsi per un attimo. Per ciascuno di loro poteva essere bene fermarsi, ma uno dei due ha deciso altrimenti. Presto non si scorgeranno più nemmeno all'orizzonte e l'incontro è svanito. Ma prima di questa separazione definitiva, ciascuno saluta l'altro, ed è quanto fa qui, signore, augurandovi buona fortuna, il barone di Charlot. Aimé non era nemmeno arrivato in fondo alla lettera, non capendoci niente e sospettando una mistificazione. Quando gli spiegai chi era il barone, si fece alquanto sognante e parve provare il rimpianto predettogli da Charlot. Non giurerei, anzi, che non abbia poi scritto per chiedergli scusa a un uomo che regalava carrozze ai suoi amici, ma nel frattempo il signor di Charlot aveva conosciuto Morel. Al massimo, poiché i rapporti col violinista erano forse platonici, Charlot cercava ogni tanto, per una sera, una compagnia come quella in cui l'avevo appena incontrato nella hall. Ma non poteva più distogliere da Morel il sentimento violento che, libero pochi anni prima, non aveva chiesto che di fissarsi su Aimé e aveva dettato la lettera mostratami dal capocameriere e di cui mi sentivo imbarazzato per Charlot. Essa era un esempio ancora più impressionante per la natura antisociale dell'amore di Charlot, della forza insensibile e potente posseduta dalle correnti della passione, a causa delle quali l'innamorato, come un nuotatore trascinato a sua insaputa, perde rapidamente di vista la terra. Certo, anche l'amore d'un uomo normale può segnare, allorché l'innamorato, attraverso l'invenzione successiva dei suoi desideri, dei suoi rimpianti, delle sue delusioni, dei suoi progetti, costruisce tutto un romanzo su una donna che non conosce, uno scarto abbastanza notevole fra le due aste del compasso. Ma in ogni caso lo scarto era singolarmente aumentato dal carattere d'una passione che non è generalmente condivisa, nonché dal divario sociale fra il signor di Charlot e me. Ogni giorno uscivo con Albertine. S'era decisa a riapplicarsi alla pittura e aveva scelto per ricominciare a lavorare la chiesa di Saint-Jean de la Haize, che più nessuno frequenta e pochissimi conoscono, difficile da farsi indicare, impossibile da trovare se non si è guidati, lunga da raggiungere nel suo isolamento, a più di mezz'ora dalla stazione de Préville, e lasciate da parecchio le ultime case del villaggio di Quéteholm. Sul nome di Préville non trovai d'accordo il libro del curato e le spiegazioni di Brichot. Per uno, Préville era l'antica Sprevilla. L'altro dava come etimologia Aprivilla. La prima volta prendemmo un trenino nella direzione opposta a Féterne, vale a dire verso Gratevast. Ma erano giorni di canicola. Era già stato terribile partire subito dopo colazione. Avrei preferito non uscire così presto. L'aria luminosa e ardente suscitava idee di indolenza e di frescura. Riempiva le nostre stanze, la mia e quella di mia madre, a temperature diverse a seconda dell'esposizione, come locali per balneoterapia. la stanza da bagno della mamma, smerlata dal sole, d'un biancore scintillante e moresco, sembrava immersa nel fondo d'un pozzo, a causa dei quattro muri male intonacati sui quali dava, mentre più in alto, nel riquadro lasciato vuoto, il cielo, di cui si vedevano scivolare l'uno sull'altro i flutti morbidi e sovrapposti, sembrava, per il desiderio che se ne aveva, situato su una terrazza o visto a rovescio in uno specchio appeso alla finestra, una piscina colma d'acqua azzurra, riservata alle abluzioni. Malgrado la temperatura rovente, eravamo andati a prendere il treno dell'una. Ma Albertin aveva avuto un gran caldo nel vagone e ancora di più durante il lungo tragitto a piedi, e io temevo che prendesse poi freddo standosene immobile in quella gola umida mai raggiunta dal sole. D'altra parte, e sin dalle nostre prime visite a Elstir, essendomi reso conto che Albertin avrebbe apprezzato non soltanto il lusso, ma anche certe comodità di cui la sua mancanza di denaro la privava, m'ero accordato con un noleggiatore di Balbec perché una vettura venisse ogni giorno a prenderci. Per avere meno caldo, passavamo dalla foresta di Chantepie. L'invisibilità degli innumerevoli uccelli, alcuni quasi marini, che si rispondevano fra gli alberi a due passi da noi, dava la stessa impressione di riposo che si prova chiudendo gli occhi. Al fianco di Albertin, incatenato dalle sue braccia in fondo alla carrozza, ascoltavo quelle oceanine. E quando per caso scorgevo uno dei musici passare da una foglia all'altra, c'era apparentemente così scarso rapporto fra lui e i suoi canti che non mi sembrava di ravvisare la fonte di questi nel suo corpicino saltellante, umile, stupito e senza sguardo. La vettura non poteva portarci fino alla chiesa. La facevo fermare appena usciti da Ketterholm e salutavo Albertin. La mia amica, infatti, m'aveva messo paura dicendomi di quella chiesa, come di altri monumenti o di certi quadri. Che piacere sarebbe vederla assieme a voi. Quel piacere mi sentivo incapace di darlo. Ne provavo, davanti alle cose belle, soltanto se ero solo o se, fingendo di esserlo, tacevo. Ma dal momento che Albertina era convinta di poter provare, grazie a me, sensazioni d'arte la cui comunicazione non avviene così, mi sembrava più prudente dirle che la lasciavo, che sarei tornato a prenderla verso sera, ma intanto dovevo andare con la carrozza a far visita a Madame Verdurin o ai Cambremer, o magari a passare un'ora con la mamma a Balbec, mai più lontano. I primi tempi almeno. Infatti, poiché Albertin mi aveva detto una volta per capriccio: «È seccante che la natura abbia fatto le cose tanto male e abbia messo Saint-Jean-de-la-Haye da una parte, la Raspellier da un'altra, e si resti imprigionati tutto il giorno nel posto che si è scelto». Non appena mi ebbero consegnato il cappellino e il velo, feci venire, per mia disgrazia, un'automobile da Saint-Fargeau, Sanctus Ferreolus, secondo il libro del curato. Albertin, da me tenuta all'oscuro e passata a prendermi, si stupì sentendo davanti all'albergo il ronzio del motore e andò in estasi quando seppe che quell'auto era per noi. La feci salire un istante in camera mia. Saltava di gioia. «Andiamo a trovare i Verdurin?» «Sì, ma è meglio che non ci veniate in questa tenuta, visto che avete la vostra auto. Ecco, così starete meglio». E tirai fuori il berretto e il velo che avevo nascosti. «È per me! Oh, come siete caro!» esclamò saltandomi al collo. E me, incontrandoci sulla scala, fiero dell'eleganza di Albertine e del nostro mezzo di trasporto, quelle vetture erano abbastanza rare a Balbec, si concesse il piacere di scendere al nostro seguito. Albertine, che desiderava farsi un po' vedere nella sua nuova toilette, mi chiese di far abbassare la capote, che avremmo poi rialzata per stare più liberamente insieme. «Coraggio!» disse Aimé, pur non conoscendolo, all'autista che non s'era mosso. «Non hai sentito che ti hanno detto di abbassare la capote?» Infatti, smaliziato dalla vita d'albergo nella quale, del resto, s'era conquistato una posizione eminente, Aimé non era certo timido come il conducente di fiacre per il quale Françoise era una signora. Anche in mancanza d'ogni preventiva presentazione, ai plebei che non aveva mai visto dava del tu, senza che fosse ben chiaro se si trattava da parte sua di aristocratico disprezzo o di fraternità popolare. «Non sono libero», rispose l'autista che non mi conosceva. «Mi hanno chiamato per Mademoiselle Simonet. Non posso accompagnare, signore». E me scoppiò a ridere. «Andiamo, razza di salame», riprese rivolto all'autista subito persuaso. «Ma sei proprio Mademoiselle Simonet. E il signore che ti ordina di abbassare la capote è per l'appunto il tuo padrone». E siccome, pur non avendo personalmente simpatia per Albertine, era fiero per me della toilette che indossava, mormorò all'autista: «Ti piacerebbe portarne tutti i giorni, se potessi, di principesse come lei?»